cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Michele, dalla provincia di Caserta, vuole dedicare "Per me amore vuol dire aver incontrato te" alla sua anima del cuore che si chiama Manuela. Ti penso sempre, anima mia. Sono un omino piccolino che diventa grande grazie al tuo cammino. Volevo dedicare "Amore per me vuol dire aver incontrato te" alla mia principessa Sami. Ho assoluto bisogno di dire a quella persona che cammina con me, solo sfiorandomi ogni giorno, che mi fa davvero sentire un raggio di sole. Potete dirglielo anche voi, sono sweet. Sono Stefano, vorrei dedicare "Amore vuol dire aver incontrato te" a Jessica di Ariano Irpino e dirle che la amo tantissimo. Siamo Claudia e Gianluca. Si sta avvicinando il giorno del nostro matrimonio. Vorrei che tu ci dedicassi una tua canzone. E sono qui apposta. Con questa canzone ho capito che amo ancora il mio ex Salvatore. Beba di Milano. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore, forse vuol dire sentirsi vivi, forse vuol capirlo, forse vuol capirlo, forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Non voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse puoi capirlo. Forse puoi capirlo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. M2O. Volevo dedicare a Mario Della Thyssen Amore grande, amore libero e ricordargli che dopo la B vanno in C. C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, Dov'è il vocalist? Checca mia, ti amo tantissimo. Non so più come farei senza di te. Il tuo Cosimettino. Bravo. Face. A Massimo di La Spezia, non ce la faccio senza di te. Dina da Pisa. Grazie, perché quando mi immergo nella musica non vedo divisione, ma comprendo tutta la realtà. Provo un sentimento di unicità. Sto toccando l'amore che unisce tutti noi. Giorni del Forum. Caschela è il camì di Gigi D'Agostino. Che dici? Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662.

Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Dov'è il vocalist? Vieni un po' qua, te. Sono qui, eh. Abbassa lo sguardo, M2O. M2O. C'è Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Mi piace Face. Vorrei dedicare la canzone Picchia a tutta Cerignola. Beppe. Oh! Ho deciso di cambiare casa. Addio. Sarà meglio per tutti e due. Oh. E non è bello. E no. Sono Elisa da Pavia. Potresti mettere luce? La vorrei dedicare a Bolla. Un bacio. Luce che si produce grazie al buio. Gigi è un grande, un artista. Ogni giorno mi porta a una nuova conquista. Lo sento dentro, appartengo a lui, sia nella gioia che nei momenti bui. Muovete. Come uno spiraglio di luce che mi conduce verso un mondo diverso, poco distante dall'universo. Ma vaffanculo! Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte. A tutti coloro che ci stanno ascoltando, vi aspettiamo venerdì 15 settembre, discoteca Coconut, Capo d'Orlando, Messina. Ecco. Sabato 16 settembre alla discoteca Flexus a Messina, in via Don Blasco 77, alle ore 22. Ci sarà in console Gigi D'Agostino, poeta, pittore, poeta, pittore, poeta, pittore, poeta, pittore. Daniele Mondello che spacca il tuo cervello. Spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello, spacca il tuo cervello. Info prevendite 339-7100-422. Preciso. Ciao Gigi, sono Gloria dalla Germania. Ti ascolto ogni giorno online. Sabato vengo a Treviso. Come devo fare per sentirti? Là non ho il PC. La frequenza su Treviso, ora te la dico di preciso. A cosa? 105.8 oppure 94 FM. Hai capito? Dottor Doug, portaci lontano. Un saluto a tutti i tuoi pazienti da Centuripe. O Centuripe. O Centuripe. È un dottor pensatore che cura le anime con cassa e amore. Bogaci via questo. Ascoltare lo sbaglio perché mi piace. Margherita dalla provincia di Salerno. Mi fai sentire lo sbaglio? Fabri DJ 90. Dedico ai miei figli Danny e Melania lo sbaglio, che a loro piace tanto, e di loro che li amo. Silvana da Termini Imerese. Sono Gennaro da Firenze. Dopo 7 anni di fidanzamento dalla mia ragazza, mi ha mollato e sono disperato. Lo sbaglio. Lo dedico a Toni per dirle ti sto cercando da 2 settimane. Baci, principessa dalla Calabria. Importante, leggetelo. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma, e se lo fa, sa quello che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando io sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, ho la soglia, per poter dire, andiamo su in taglio. Chi lo sa, se darci un taglio, non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio. Se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. E Gigi D'Agostino vi aspettano questa sera, venerdì 8 settembre, a partire dalle ore 22:30, alla discoteca Ayers Rock One, Lamezia Terme, Catanzaro. Domani sera, sabato 9 settembre, alla discoteca 24.000 baci, Latina. Il Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Fabi, Michi e Giorgia di Oggiono, Barbo di Arezzo, Gianni da Porto Empedocle. Oh. Ciao Licia, ti voglio un mondo di bene dal tuo montato buffone. Scemo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Agoso, io sono stanco, mi sono altercato, veramente. Ho una richiesta da fare. Fai tu. Mi manderesti in onda la canzone Ancora Insieme? Certo. Dani. Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Accento la radio su M2O. Ascoltare Gigi D'Agostino. Accento la radio su M2O. Gigi D'Agostino. La sua musica prende vita. Il cammino di Gigi D'Agostino. Appiccia un po' sta musica. Dov'è il vocalist? Ero distratto. Ma cosa? Tutto inizia da un rumore che poi entra nel tuo cuore. Quando passa nella mente ne sei già dipendente. Bogaci via questo. We'll be right back. Giusto per dire, non tutti lo sanno, Gigi D'Agostino dà il buon compleanno a Carmine D'Alghero. Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Nicoletta, Silvia e Francesca che erano a Oggiono ieri sera. Giusi, dalla provincia di Como. Serigna Cane, è senegalese. Ma ciao proprio. Ma che è? Ciao e grazie.